Allora, buongiorno a tutti e bentornati sulle libere frequenze di Radio Wombat. E oggi abbiamo un po' di ospiti qui in studio, nella tana del Wombat, e faremo una puntata un po' particolare tornando su alcuni temi che abbiamo già affrontato anche in passato, però mai così bene e mai con ospiti così speciali. Siamo qui con Pasquale, infatti, che ha attraversato stagioni di lotta importanti come sono state quelle degli anni 70 e ha vissuto tanto anche in una delle istituzioni totali di cui oggi ci piacerebbe parlare, ovvero l'istituzione carceraria. E quindi oggi non voglio dilungarmi troppo e cercheremo più che altro di far parlare lui e attraverso la sua storia e le lotte che ha affrontato appunto dentro il carcere, proveremo un po' a capire, a far emergere il modo in cui questa istituzione è cambiata nel corso degli anni e anche un po' oggi cosa sia diventata e cosa si possa fare per riprendere un filo di lotte che è stato represso e interrotto negli anni. Ok, Pasquale, io inizierei un po' dall'inizio, cioè provando un po' a capire ovviamente cosa ha significato il carcere per te, come ci sei arrivato, come ci sei entrato e che effetto ha avuto sulla tua vita e anche sul tuo modo di intendere la politica. Bene, il carcere per me è stato fondamentale nella mia crescita, nella mia presa di coscienza politica, eccetera. Io sono entrato in carcere casualmente a 16 anni per una rissa in un locale da ballo in cui poi abbiamo avuto anche diciamo, un battibecco con i carabinieri. Sono finito in carcere, ho conosciuto questa realtà. E attraverso quella prima esperienza la mia vita è cambiata, nel senso ho cominciato a prendere una strada, a praticare diciamo, azioni di riappropriazione della ricchezza extralegale, fuori dalla legalità, prima con piccoli furti e poi con le rapine in banca. Nel frattempo sono entrato e uscito dal carcere più volte, nel senso. Attraverso queste esperienze, all'inizio degli anni 70, alla fine degli anni 60, il carcere è cambiato completamente, rispetto a quello che era il carcere degli anni precedenti. È cambiato completamente perché sono entrate in carcere nuove generazioni, di ribelli, di gente che non era più disposta a sopportare quelle che erano le regole e i regolamenti, diciamo, interni al carcere, ereditati dal fascismo. E perché in carcere cominciavano a entrarci anche i compagni rivoluzionari che nelle manifestazioni di piazza delle organizzazioni extraparlamentari, lotta continua, potere operaio, avanguardia operaia, eccetera, eccetera. E, diciamo, tra questa realtà ha creato una miscela esplosiva, insomma, una miscela esplosiva che ha fatto entrare in tilt tutto quello che era il sistema carcerario, che poi ha dato vita a un ciclo di lotte incredibile, che ha investito tutte le carceri dal nord, partendo da Torino, dai grandi giudiziari metropolitani, arrivando fino al sud, alle isole Sicilia, Sardegna, eccetera, investendo l'intero sistema carcerario. L'immagine di quegli anni è molto chiara. Vediamo fotogrammi, fotografie in bianco e nero di detenuti sui tetti, carceri in fiamme, e cioè questo era quello che avveniva in quegli anni, non c'erano più mediazioni, nel senso la gente non accettava più il sistema carcerario e le lotte puntavano a distruggere le carceri e a tentativi di liberazione, anche che poi sono avvenuti negli anni successivi a livello di massa. Quindi mi pare di capire che la tua generazione è una generazione che comunque aveva una coscienza politica molto forte di quello che voleva dire il carcere, di quello che rappresentava per il sistema, che però questa coscienza politica sia emersa proprio durante la permanenza in carcere. Cioè molti di voi, molti dei tuoi compagni, prima di entrare in carcere non avevano questa consapevolezza, questa coscienza, ma l'hanno assunta direttamente là dentro. E il carcere si è venuto a configurare per te, come per altri, quasi addirittura come una scuola di vita, oltre che di militanza politica. Esatto, nel senso le lotte carcerarie inizialmente erano lotte contro piccoli soprusi delle guardie a cui ci si ribellava, ci si barricava, cioè ci si scontrava con le guardie. Piano piano hanno cominciato ad assumere una dimensione di massa collettiva e con obiettivi politici, con delle piattaforme programmatiche che mettevano in discussione appunto il sistema. Questa realtà ha dato vita a un movimento importante, il movimento dei proletari prigionieri, perché bisogna ricordarci che in quegli anni, dal 68 in poi, sì, c'è stato il movimento degli studenti, il movimento operaio nei quartieri proletari, le donne, sono apparse nella scena, politica da protagoniste, ma c'è stato anche il movimento dei proletari prigionieri che ha conquistato un suo diritto a partecipare a quel grande movimento di lotta e che puntava a una trasformazione radicale della società. E da questo movimento sono nati tanti compagni, tanti militanti, tra cui io. Senza questa esperienza io avrei fatto tutto un altro percorso probabilmente, e come me tanti altri. Abbiamo esperienze di compagni che sono morti con le armi in pugno combattendo, che sono usciti dalle carceri, che erano appunto dei delinquenti, diciamo così, durante quelle lotte sono diventati dei militanti rivoluzionari, ne cito solo due per darvi l'idea, Martino Zichitella e Antonio Lomuscio, morti combattendo per i nuclei armati proletari. Compagni che si erano fatti una decina di anni di carcere, in quel periodo sono diventati dei rivoluzionari proprio dentro quel movimento, dentro quelle lotte, dentro quell'esperienza collettiva e usciti fuori hanno continuato una militanza rivoluzionaria entrando appunto nei nuclei armati proletari. Anche all'interno di questo ambiente, di questa situazione comunque molto, molto tesa, dove dentro le carceri c'era anche quella che possiamo chiamare un'organizzazione, cioè comunque i detenuti si incontravano, si organizzavano per provare a migliorare le loro condizioni. Il rapporto con gli altri detenuti, quelli che potremmo definire i detenuti comuni e quelli che non erano dentro per motivi politici o anche quando erano dentro magari puntavano un pochino a rimanere in disparte, non si interessavano di queste cose. Com'era? Si riusciva ad avere a organizzarsi con loro, a farli partecipare alle rivolte? Oppure non c'era modo di comunicare? Si aveva l'impressione, come ci raccontano alcuni compagni che sono stati in carcere negli ultimi anni o che purtroppo sono in carcere tuttora, c'è una specie di muro, tra le persone che sono dentro. Bisogna capire che in quegli anni il trattamento dei detenuti era uguale per tutti, come appunto avveniva anche nelle fabbriche, l'operaio massa, il contratto di lavoro era uguale per tutti, eccetera. Cioè tutto completamente diverso dalla situazione di oggi, sia nelle fabbriche e sia nelle carceri. Per cui qualunque detenuto, anche quello per piccoli reati, era trattato nello stesso modo di tutti gli altri. Quindi gli interessi erano gli stessi e la lotta univa tutti, come appunto succedeva anche nelle fabbriche in quegli anni là. E poi il rapporto era di scontro diretto, non c'erano figure di mediazione, tipo assistenti sociali, psicologi e tutte queste figure, diciamo, civili che ci sono oggi dentro le carceri. Lo scontro era militare, c'avevi detenuti e guardie, non c'era, era semplice, le guardie avevano una divisa addosso, nel senso non ci voleva molto a individuare il nemico e questo compattava tutti, tant'è vero che quelle lotte sono state lotte di massa che hanno coinvolto tutti i detenuti nelle carceri, cioè da gente che ci aveva da fare 2 mesi e che si è messa in gioco, ha partecipato a quelle lotte, magari si è anche rovinata, nel senso ha preso anche anni di galera, perché diciamo la spinta era talmente forte che coinvolgeva tutti, insomma. E secondo te, queste lotte poi lasciavano un segno anche nella vita delle persone che uscivano, cioè quando le persone poi magari si trovavano fuori, come avevano un modo diverso di rapportarsi alla società proprio perché avevano partecipato a questi importanti momenti di rivolta. Sicuramente avevano, diciamo, introiettato dei principi e dei valori che erano quelli comunque dei compagni di giustizia, insomma, di stare sempre dalla parte dei più deboli, mai da quella dei più forti, stare sempre contro lo Stato e mai con lo Stato. C'erano delle discriminanti, dei punti che chi aveva partecipato a quelle lotte poi se l'è portato dietro, indipendentemente dalle scelte che poi può avere fatto, diciamo, negli anni successivi. Però in quegli anni, appunto, quello che ha inciso parecchio è stata questa nuova composizione di classe che va dai compagni, dai rivoluzionari, va alle batterie, cioè ai ribelli, ai rapinatori, perché la rapina in banca entrano in scena e modificano completamente tutto, nel senso, scatta un altro tipo di meccanismo, i soldi non si vanno a prendere nelle case o dalla povera gente, si va nelle banche a pigliare i soldi, si va nelle banche a espropriare le banche. Questo ci univa, cioè creava diciamo, dei punti di vista molto, molto simili. Poi le batterie ricevevano, io tra l'altro prima di diventare un compagno ho fatto parte di una batteria di rapinatori, quindi so benissimo come funzionavano, cioè c'erano dei rapporti ugualitari. Non c'era una gerarchia, un capo e dei gregari, e tutto veniva diviso in parti uguali, e tutto veniva condiviso, e gli obiettivi da attaccare venivano discussi dentro la batteria, si prendeva delle decisioni tutti insieme, e su questo poi ci si metteva tutto, nel senso se qualcuno cadeva durante l'azione, la batteria continuava a sostenerlo, sostenendogli la famiglia, cercando anche di aiutarlo eventualmente anche a scappare dal carcere, cercando di far entrare dentro il carcere Seghetti o negli anni successivi addirittura le pistole, le armi, insomma, gli esplosivi, perché questo è successo, insomma. E d'altra parte quello dentro si sentiva comunque orgoglioso, sapeva di non essere abbandonato e di avere i suoi compagni fuori che avrebbero fatto di tutto per sostenerlo. D'altra parte lui aveva solo un obbligo, quello di comportarsi correttamente, di non parlare, di collaborare, diciamo, con lo Stato. E senti, anche nel corso dei molti anni in cui sei stato dentro, no? Tu sei entrato in un periodo dove le lotte sociali comunque avevano raggiunto un apice in Italia, dove comunque molti avevano creduto possibile, che un cambiamento rivoluzionario avesse luogo, tanti ci avevano creduto, avevano dedicato a questo la propria vita. Se invece uscito in un periodo dove si può dire tutto il contrario di questo, dove sembrava che il capitalismo avesse vinto definitivamente la battaglia della storia, dove noi non è che ci sia mai stata particolarmente simpatica l'Unione Sovietica, però l'Unione Sovietica comunque era stata distrutta, quindi sembrava che il modello americano rimanesse l'unico possibile e dove un cambiamento sociale sembrava quasi utopico, quasi che i compagni avessero perso definitivamente il treno della storia e si fossero dovuti rintanare nelle proprietà, nei centri sociali che per l'appunto sono nati in quegli anni, un po' anche come meccanismo di difesa rispetto a quello che c'era fuori. In che modo tu hai visto anche il carcere cambiare durante questi 20 anni di storia, in che maniera quello che succedeva dentro seguiva un po' l'andamento delle lotte, penso ovviamente anche con tutta la stagione dei pentiti, delle dissociazioni, comunque penso che fossero episodi che lasciavano molto il segno per chi viveva dentro. I grandi cambiamenti, diciamo, sono avvenuti tutti nell'arco di un decennio, dalla metà degli anni 70 a metà degli anni 80. Per Per dare un'idea, diciamo, della situazione, nel 1976 c'è stato circa 436 evasioni nel carcere, un anno è di 365 giorni, significa che c'era più di un'evasione al giorno. Molte di queste evasioni erano di gruppi, addirittura qui 10-15 persone, molte delle quali armate, che uscivano dal portone principale del carcere, sequestrando le guardie, eccetera, eccetera. È una situazione completamente ingovernabile, è assaltato tutto. Nel 1977 istituiscono le carceri speciali. Nelle carceri speciali ci rinchiudono i rivoluzionari e ci rinchiudono questi soggetti ribelli delle batterie che avevano partecipato al ciclo di lotte, che erano assolutamente ingovernabili, nel senso in carcere ci stavano solo con l'intenzione di evadere praticamente. Si organizzavano per evadere e tra loro e i compagni si era creato una solidarietà è incredibile. Infatti molte di quelle evasioni, per fare un esempio quella di Prospero Gallinari, dal carcere di Treviso, sono evasi in 13, 12 detenuti comuni di queste batterie, Prospero Gallinari, perché c'era una solidarietà, l'evasione era tutta organizzata dai comuni, ma essendoci un compagno delle Brigate Rosse nello stesso carcere era impensabile scappare senza portarsi dietro anche il compagno rivoluzionario, perché questo era la stessa cosa, veniva da parte nostra quando si riusciva a mettere in piedi qualcosa. Negli anni Ottanta, dopo le prime battute d'arresto, diciamo, dopo appunto l'istituzione di queste carceri speciali in cui è cambiato tutto, ma le lotte sono continuate, però c'è stata una grande divisione tra, diciamo, quelli che erano gli elementi più avanzati della popolazione detenuta e la massa dei prigionieri, nel senso quello è stato un primo. E il cambiamento lo abbiamo visto appunto quando è iniziata la stagione, diciamo, delle sconfitte, la dissociazione, il pentimento, eccetera, e abbiamo cominciato a vedere entrare in carcere figure tipo i tossicodipendenti. L'eroina stava dilagando nelle città allo stesso passo con cui, diciamo, rifluiva il movimento, e quindi le aspettative, i sogni rivoluzionari che davano vita e forza a tanti compagni, venendo meno questi di fronte a una sconfitta che si prospettava sempre più evidente, l'eroina ha fatto strage negli ambienti, nei quartieri proletari. Si cominciava a vedere entrare in carcere questi soggetti tossicodipendenti e chi gli forniva la droga, quindi la malavita, nel senso camorra, eccetera, che non era più quella di una volta, perché quella di una volta non spacciava droga, non esisteva neanche, diciamo, questa cosa. Era una nuova generazione di mafiosi, di grande criminalità organizzata, che piano piano hanno preso il sopravvento anche su di noi. Mentre il carcere, nel tutto il periodo precedente, era governato da questi soggetti, tra i rivoluzionari, i compagni e questi proletari delle batterie, negli anni successivi a governare le carceri erano perché erano una maggioranza. Ci si era assottigliati, perché fra la dissociazione e il pentitismo molti erano usciti, erano stati declassificati, eccetera, eccetera, mentre invece nelle carceri cominciavano ad arrivare questi mafiosi, questi camorristi, e loro erano 5-6 mila, cioè cominciavano a dettare legge, a imporre il loro ordine, che è un ordine assolutamente compatibile col sistema capitalistico, perché loro non attaccano lo Stato, loro cercano di prendere il dominio rispetto alla popolazione, imponendo le loro regole, le loro leggi, eccetera, eccetera. Questa è la loro cosa, si guardano bene da combattere contro il più forte, combattono contro i più deboli, cercando di piegarli alle loro volontà. E questo io l'ho assistito negli ultimi anni, è stato molto triste, nel senso, vedere queste scene, addirittura tentativi di questi camorristi di darti i panni da lavare, lavami la biancheria, cioè cose impensabili negli anni precedenti, in cui tutto veniva condiviso, tutto veniva fatto collettivamente, tutti ci si, diciamo, comportava e ci si rispettava allo stesso piano. Vedere tentativi di sottomettere della gente, alcuni compagni sono stati anche accoltellati, c'è stato delle situazioni, insomma, perché chiaramente chi aveva una coscienza rivoluzionaria, chi veniva da quelle esperienze, non si poteva piegare di fronte a questi soggetti. La situazione era molto, diventata molto pericolosa, insomma, chiaramente con la tolleranza delle guardie, che gli andava bene in una situazione di questo tipo, perché tanto questi soggetti qui mettevano a tacere qualunque contraddizione, qualunque tentativo di rivolta rispetto al carcere, insomma, e quindi non mettevano in discussione il potere, insomma, anzi ci andavano a braccetto. Mentre invece negli anni precedenti, quando sono partite le lotte con la malavita, la grande malavita organizzata, mafia, camorra, eccetera, degli anni precedenti, quando ancora loro avevano il dominio, però noi si cominciava a crescere e a pesare, loro tentavano di fermare queste lotte, perché loro avevano tutti i loro privilegi, avevano dei rapporti con i marescialli delle carceri, insomma stavano bene, non avevano problemi e cercavano di mantenere l'ordine, avevano tutto interesse a mantenere l'ordine. Io nel mio libro l'ho anche scritto, le lotte sono partite perché c'è stato prima uno scontro a monte con questi soggetti qui, scontro che sono avvenuti in tutte le carceri fino a che loro si sono piegati. Quindi c'è stata una fase, diciamo, nel sistema carcerario in cui siamo stati noi, i compagni, a mettere in ginocchio questa gente, a imporre il nostro ordine, insomma, praticamente. Cosa che poi negli anni Ottanta, appunto, come dicevo prima, invece si capovolge completamente la situazione. E io, appunto, nel mio libro, correvo pensando ad Anna, racconto un episodio come alle murate le lotte sono partite dovendo fare i conti con questi soggetti. Io mi sono beccato anche una coltellata da un camorrista, insomma, però poi alla fine abbiamo risposto, nel senso, collettivamente, nel senso, ci siamo fatti coraggio. Li abbiamo presi a bastonate, li abbiamo mandati all'ospedale, li abbiamo cacciati dalle sezioni e lì sono ripartite le lotte. La stessa cosa è avvenuta dappertutto, senza fare i conti con quel sistema di potere all'interno dei detenuti, non era possibile che le lotte potessero, diciamo, prendere. Che riguarda invece, appunto, l'istituzione delle carceri speciali, cioè, tu pensi che sia stata una cosa azzeccata, isolare i compagni dal resto dei detenuti comuni, o che un po' comunque concentrare tutte le persone più pericolose anche nello stesso punto sia una mossa che si sia un po' ritorta contro lo Stato, perché poi, cioè, di fatto ha dato vita a momenti di rivolta carceraria molto importante. Poi io invito anche gli ascoltatori comunque a leggere il tuo libro, perché è molto interessante, tutte queste storie sono raccontate veramente nel dettaglio. Il libro si chiama Correvo pensando ad Anna, edizioni Idea, lo trovate in tutte le distribuzioni un po' più, diciamo, non allineate alla cultura egemone. E, dicevo, tutte queste rivolte carcerarie, dal tuo libro te le sei fatte praticamente tutte, non so se te ne sei saltata qualcuna, però comunque te ne sei viste molte, da Trani all'Asinara, a Porta Azzurro, alle murate, ovviamente, che è stata un po' la prima, possiamo dire, nel 74, giusto? Sì. Tra l'altro, lì indubbiamente si vede anche, secondo me, proprio nella rivolta delle murate, cosa vuol dire avere un carcere che è all'interno di un tessuto cittadino, che quindi è anche collegato molto con l'esterno, perché comunque il quartiere delle murate era un quartiere di Santa Croce, un quartiere molto popolare, dove i detenuti magari parlavano dalla finestra con i parenti che andavano sul terrazzo davanti, dove chi viveva nel quartiere quasi tutti avevano un parente in carcere. E quindi quando c'è stata la rivolta delle murate, anche tanti compagni ci raccontano che non c'era bisogno di stare dentro al carcere per partecipare alla rivolta, perché tutti erano confluiti nel quartiere, avevano fatto le barricate, si erano scontrati con la polizia, dai ragazzini di 15 anni ai compagni più anziani. Invece si vede che con l'istituzione di le carceri speciali che poi è una cosa che in realtà si è cercata di espandere anche agli altri carceri, perché ora è quasi nessuna città più un carcere all'interno delle mura cittadine. L'unica forse è rimasta San Vittore a Milano e Regina Coeli a Roma, che sono un po'. Poggioriana, Sì, e Poggio Reale a Napoli e a Palermo c'è ancora Sardegna. Lucciardone. Però comunque sono pochi i carceri che sono all'interno delle mura, sia a Bologna, a Firenze, a Torino, a Genova mi sembra. Non so quando è stato costruito Marassi, però penso anche lì durante quegli anni. Comunque i carceri sono stati tutti spostati, non. Dalla loro posizione centrale e relegati un po' nelle periferie più anonime delle città. Quindi tu come ti sei un po' vissuto questo passaggio dalle carceri pre-77, pre-carceri speciali, quando comunque c'era un legame del tipo del tutto diverso sia con gli altri detenuti, ma sia anche col mondo circostante, a invece dopo, quando tutto era filtrato, tutto era molto più controllato, però dall'altra parte magari era anche più semplice discutere coi compagni di alcune cose, perché proprio eravate tutti insieme, te li ritrovavi fianco a fianco. Sì, diciamo, la scelta di istituire le carceri speciali è stata un po', che si può dire, un'arma a doppio taglio, cioè ha avuto due facce, nel senso, da una parte ha consentito al potere, di togliere, diciamo, dalle carceri una massa di 3-4 mila persone, che erano quelli, insomma, che più capeggiavano le lotte, erano quelli che tiravano le lotte, eccetera, eccetera, dal resto della popolazione per poi poter pacificare. Dall'altra parte però hanno concentrato questa gente, questa forza, questa grande energia di ribellione rivoluzionaria nelle carceri dove, pur avendole costruite nelle periferie, addirittura nelle isole, isole dell'isole, come quella dell'Asinara, nel senso è un'isola nell'isola, perché è in Sardegna, ma non è in Sardegna, è un'isoletta della Sardegna, dove pensavano che non potesse succedere niente, invece c'è stato delle grandi rivolte, il carcere dell'Asinara è stato distrutto due volte, in due rivolte, la seconda addirittura con l'uso degli esplosivi. Io ho partecipato chiaramente a tutte e due le volte perché all'Asinara mi sono fatto quasi 5 anni, quindi me la sono fatta quasi tutto quel periodo lì. E poi vabbè, la rivolta di Trani, il sequestro di 19 guardie, che abbiamo tenuto il carcere in mano, diciamo, per 24 ore, tutta la notte, nel senso è stato anche quella un'esperienza bellissima. Cioè, io il fatto di avere partecipato a tutte queste rivolte, compresa appunto quella delle murate, non è che è stata una scelta mia, mi sono trovato dentro delle situazioni e ho avuto la fortuna di fare delle esperienze, perché per me sono state esperienze molto importanti, nel senso la rivolta delle murate, come dicevi te prima, le murate erano in centro, nel quartiere di Santa Croce. E le famiglie di quel quartiere, le famiglie proletarie, non ce n'era una e non aveva qualcuno in carcere. Quando è scoppiata, si è sentita la sparatoria e che c'erano dei morti, dei feriti, la gente si è riversata. C'è stata un'insurrezione di massa, un'insurrezione popolare nel quartiere di Santa Croce. Dalle finestre dove c'erano gli sbirri sotto volavano mobili, gli tiravano addosso di tutto, insomma, la gente vuotava le case per tirarle in testa. Olio bollente, cioè delle scene sia per strada con le barricate sia dai tetti, e quella sicuramente per loro è stata un'esperienza che gli ha fatto capire tante cose, appunto, che non era il caso di lasciare le carceri in certi, diciamo, dentro certi quartieri popolari in cui, nella misura in cui un carcere insorge, poi c'è il pericolo di insorgere un intero quartiere, come appunto è avvenuto, no? In quella rivolta lì dove le guardie spararono, ammazzarono Giancarlo Del Padrone, un proletario di 20 anni che già aveva da fare pochi mesi di carcere. e ferirono altri 7-8 prigionieri, nel senso fu un massacro preventivato, però è stata anche un'esperienza quella che poi ha fatto sì che anche il movimento dei proletari prigionieri ha preso coscienza e ha fatto un salto di qualità. Infatti sono nati i nuclei armati proletari, hanno detto contro uno Stato armato che usa le armi e spara addosso ai detenuti disarmati, i detenuti si devono armare. E questo è successo sia dentro le carceri e sia fuori, nel senso con la nascita dei nuclei armati proletari fuori e dentro le carceri, appunto come dicevo prima, con quelle 400 erotte evasioni nel 76, la maggior parte delle quali tutte armate, quindi i detenuti avevano capito che bisognava armarsi, insomma, per combattere questo sistema. La collocazione delle carceri speciali e poi successivamente anche delle carceri normali, i nuovi carceri che hanno costruito l'hanno costruite tutte fuori dalle mura delle città, nel senso nei posti più periferici e più lontani, più inaccessibili possibile. Per esempio, mi ricordo, sono stato a Teramo, dove ci sono i detenuti politici ancora dentro da oltre quasi 40 anni, militanti delle Brigate Rosse. Mi sono fermato per fare delle fotografie a questo carcere passando in macchina con dei compagni, mi sono fatto accompagnare, ero lì per la presentazione di un libro, sono voluto andare a vedere ed è in una periferia proprio fuori da tutto. Come ci siamo fermati, subito c'era la camionetta dei carabinieri che girava intorno al carcere e ci ha intimato col megafono di allontanarci immediatamente. Vabbè, io ho scattato 3 o 4 foto, poi si è capito che questi davano l'allarme, la strada è una sola, poi ci fermano e siamo riusciti, insomma, a venire via giusto in tempo. Questo per far capire che non ti consentono nemmeno di avvicinarti e di fermarti a guardare il carcere, ma da una strada pubblica. Noi non eravamo dentro il carcere, capito? Il carcere c'era un perimetro grandissimo intorno al carcere, lontano dal carcere, tutto recintato, quindi era impossibile avvicinarsi. Noi passavamo da una strada normale dal quale si vedeva questo carcere, dal quale ci eravamo fermati, quindi noi potevamo, voglio dire, liberamente fermarci e fare gli affari nostri. Eravamo su una strada pubblica, non eravamo su un coso privato interno al carcere, però è così. Nel senso, adesso in queste situazioni controllano non solo, diciamo, il perimetro intorno al carcere, ma anche le strade d'accesso da cui in qualche modo si può vedere il carcere, insomma. Ma rispetto, cioè appunto esisteva, quindi dovuto anche a una collocazione territoriale, esisteva quindi appunto un contatto continuo e anche possibile fra chi era dentro e chi era fuori, per cui c'era anche una solidarietà diretta e potenziale aiuto. Appunto, prima parlavi di materiale che entrava e cose simili, ma voi riuscivate ad avere contatti che non fossero esclusivamente di lettere con altri compagni in altre carceri, altri detenuti con cui magari, cioè, te sei riuscito magari a rimanere anche con possibilità di organizzarsi e coordinarsi con compagni che avevi conosciuto in altre carceri o altri prigionieri? Era possibile questa roba? O? Sì, era possibile attraverso tanti metodi, nel senso uno dei quali era quello attraverso i processi, che te giravi, andavi, diciamo, in altre carceri di passaggio, una cosa o un'altra, e circolava un po' di tutto. La dimostrazione c'è quando è partita la campagna con la parola d'ordine chiudere l'Asinara con ogni mezzo. Non è che hanno partecipato solo i detenuti delle altre carceri speciali per arrivare a chiudere questo lager dove venivano torturati i prigionieri, ma c'è stato rivolte, sequestri, Volterra, San Gimignano e in altre carceri che erano appunto legate a questo tipo di ragionamento, che comunque attraverso i processi in un modo o un altro girava, anche se ti mettevano in isolamento riuscivi a far circolare, diciamo, le comunicazioni, e al momento opportuno scattavano anche, diciamo, delle lotte su questo fatto. Infatti, come è stata quella della chiusura dell'Asinara, che poi ha trovato il suo culmine nel sequestro d'Urso delle Brigate Rosse. D'Urso era il magistrato del Ministero della Grazia e Giustizia che si occupava delle carceri speciali, quindi primo responsabile che decideva chi doveva stare nelle carceri speciali e come si doveva stare dentro le carceri speciali. E quindi, voglio dire, col suo sequestro e la rivolta dei Trani contemporaneamente in appoggio alla chiusura dell'Asinara, siamo riusciti a ottenere appunto questo obiettivo, che è stato quello della chiusura dell'Asinara. A distanza di anni, l'Asinara oggi è un'isola turistica in cui ci si può andare a visitarla. Molti pensano che sia stata chiusa per qualche democratico illuminato e roba varia. Non è così. L'Asinara è stata chiusa con le lotte dei prigionieri. Sono stato versato sangue, lacrime e decine d'anni di galera sono costate queste lotte. È stata chiusa dalle Brigate Rosse con il sequestro d'Urso, è stata chiusa dalle forze rivoluzionarie e proletarie. Questa è la verità storica, nel senso. Quindi chi va all'Asinara, vede questi posti, farebbe bene a conoscere anche la storia, insomma. Che non è che qualcuno a un certo punto ha detto: ma in quel carcere si tortura i detenuti, chiudiamolo, siamo uno Stato democratico. No, non è stato così. Gli è stato imposto dalle lotte proletarie e rivoluzionarie la chiusura dell'Asinara. Quindi, voglio dire, l'esperienza anche di quegli anni, che si è conclusa con una sconfitta di tutto il movimento in generale, non si parla solo di lotta armata, si parla di un grande movimento che si è espresso in mille forme e in mille modi, nelle piazze, nelle scuole, nelle fabbriche, nelle carceri. È vero, è stato sconfitto questo movimento, ma in quel periodo ha ottenuto anche tante vittorie. Appunto, questa della chiusura dell'Asinara è stata una di queste, imposte allo Stato con le lotte. Come è stato imposto allo Stato durante la rivolta di Trani la liberazione e la scarcerazione del compagno anarchico, che ora non mi ricordo il nome, che era malato di tumore alle ossa e che veniva tenuto in un carcere speciale senza cure, senza nulla. Immaginatevi voi cosa significa uno malato di tumore alle ossa, i dolori e cose, e non viene curato, non gli viene fatta nessuna terapia antidolorifica né niente. Noi, fra gli obiettivi, oltre alla chiusura dell'Asinara, chiedemmo la scarcerazione di questo compagno, e siamo riusciti a ottenere anche questo. Questo compagno è morto a casa sua, e questa è un'altra grande vittoria. Si sta parlando di un compagno anarchico, di Azione Rivoluzionaria, e questo dimostra l'unità che c'era tra le varie organizzazioni, perché non era un militante delle Brigate Rosse, non era un comunista, diciamo, era un anarchico, ma in quegli anni, nel senso, queste differenze non contavano poco e niente. Ma questo, nella tua percezione, è una cosa, cioè, che avveniva particolarmente in carcere o in tutto il movimento, di questa solidarietà, oltre anche gli, insomma, il pensiero politico o anche l'attitudine? Perché sicuramente in quel ciclo di lotte immagino ci siano state anche diverse generazioni con anche sensibilità diverse. Nella tua percezione, una cosa è avvenuta più in carcere altrove o è stata... Hai ragione, la tua domanda è giusta. Queste differenze, queste battaglie politiche, chiamiamole così, contraddizioni all'interno del movimento, fuori erano presenti ed erano anche forti, è inutile negarlo, questa è la realtà. Ma dentro le carceri scomparivano, perché dentro le carceri avevi un nemico comune, chiaro, che opprimeva tutti nello stesso modo, e l'unico modo per combatterlo era abbattere le barriere ideologiche, politiche e organizzative e mettersi tutti insieme contro questo sistema. E questo noi siamo riusciti a farlo, nonostante, appunto, è giusto riconoscerlo che fuori non era così. E tra tutte le rivolte che hai indicato e che hanno attraversato quegli anni, secondo te ce n'è una che è particolarmente significativa? Quella dell'Asinara, magari, come hai ricordato, ti sembra più importante di altre, o sono un po' tutte su della stessa importanza? Cioè, esiste un momento simbolico che fa capire meglio quel periodo? Diciamo che quella dell'Asinara, la battaglia del 2 ottobre 1979, che non potrò mai dimenticare, sicuramente crea un precedente. È la prima volta che i detenuti utilizzano l'esplosivo in una rivolta. Non era mai successo prima. poi succederà in altre carceri, succederà a Trani, anche in cui c'è stata anche la battaglia con le truppe speciali dei carabinieri che sono intervenuti, i GIS, i famosi GIS, che sono intervenuti con gli elicotteri, pareva di essere in Vietnam, sparando con le mitragliatrici sui detenuti, nel senso era una roba da film, a vederla. L'Asinara, diciamo, è stata la prima volta che questo ha un po', diciamo, creato un precedente non da poco, nel senso che la battaglia del 2 ottobre sono state usate l'esplosivo con le famose moca, le macchinette del caffè, in cui invece dell'acqua c'era il plastico, in cui dai filtrino usciva la miccia, insomma, con il detonatore dentro, la macchinetta avvitata. Se volevi fare male ci mettevi pezzi di ferro dentro, se volevi solo creare spavento lo facevi così, col plastico puro, come si fece noi all'Asinara, che tentarono di attaccarci 3 volte le guardie in questi corridoi strisciando, senza rendersi conto che noi dalle feritoie avevamo fatto tipo periscopi con gli specchietti, riuscivamo a controllare tutto il corridoio. E li facevamo avvicinare e poi tiravamo una bomba alla testa, una bomba alla coda e una nel mezzo, e dentro un corridoio blindato dalle mura di un carcere, quindi fortificato, questi botti facevano paura, tremava, cioè non trovando sfogo, e vedevi tutto nero, poi si diradava al nero e dovevano arrivare a portare via una decina di sbirri, sangue schizzato sui muri da tutte le parti, tutte queste cose sui giornali non c'erano, perché il nemico non voleva far vedere che aveva subito perdite, ferite, eccetera, eccetera, no? E chi le aveva buscate doveva essere solo i detenuti. Invece ricordo benissimo, insomma, questa scena 2 o 3 volte finché questi non entravano più, fecero arrivare i carabinieri e poi l'esercito addirittura. Per contrastarci, insomma. C'è un po' buffo perché è il contrario di come è ora, nel senso dove invece quando uno sbirro viene ferito i giornali sì, ci marciano parla, sopra, vero, perché dicono ah, che cattivi, hanno ferito uno sbirro. Invece all'epoca queste cose si tendeva più di nasconderle, perché magari c'era anche un modo diverso di pensare da parte delle persone, per cui non è che tanto dovevi allontanare. Non c'era ancora questa ideologia pacifista per cui i violenti erano da isolare, ma anzi far vedere che alcune azioni erano efficaci avvicinava la gente a te, perché faceva vedere che determinate cose eri capace di farle ed eri capace anche di fare male quando volevi. È vero, infatti a Trani quando hanno fatto i blitz sui giornali uscì fuori un blitz, sembrava che in 5 minuti questi fossero arrivati e avessero diciamo occupato il carcere e rimesso ordine. C'è stata una battaglia andata avanti 3-4 ore, scala per scala, portone per portone, nel senso questi prima di riuscire a entrare, nonostante con le loro armature, armati, fucili a pompa, mitragliatori e bomba a mano, dall'alto e dal basso, perché erano arrivati da tutte e due le parti, i detenuti, noi con quel poco che avevamo, con l'esplosivo che avevamo, una cosa o un'altra, siamo riusciti a difendere il carcere per una battaglia andata avanti 3 o 4 ore, questa è la realtà. Loro però questo non lo dovevano, si ritorna al discorso che dicevi te, no? Dovevano dimostrare la forza dello Stato che interviene, capito, e mette tutto a posto nel giro in 4 e 4-8. Non è stato così, nel senso c'è stata una battaglia scala per scala e molto dura, insomma, molto anche verbale, nel senso questi venivano su, dicevano quando veniamo su prima o poi vi ammazziamo tutti, e noi che rispondevamo ma a noi ci sa da fare degli ergastoli, ci importa una sega, sei te che tu devi tornare a casa stasera, tu avrà moglie e figli e non ci torni, perché se tu provi a salire 2 scalini ti tiro una bomba a testa. Era tutto un clima anche di guerra psicologica tenuta in piedi, capito, da compagni determinati con forza e sapendo, insomma, che poi alla fine non avevamo niente da perdere, insomma eravamo seppelliti dentro le carceri, se c'era qualcuno che aveva da perdere qualcosa erano loro, non noi. Invece per quanto riguarda un po' i punti più critici di questo movimento, cioè quando bene o male lo Stato è riuscito un po' a sconfiggerlo. Tu pensi che la dissociazione in questi punti, più che il pentitismo, che ovviamente è una cosa, Chiaramente. il pentitismo diciamo non è niente di nuovo, perché sostanzialmente si compra una persona e promettendogli delle cose si fa passare dall'altra parte. Sulla dissociazione invece è una cosa un po' più subdola, perché alla fine il dissociato non è che vende i suoi compagni, però in un certo modo magari si adopera per costruire un clima per cui determinate cose vengono anche viste in maniera più leggera e quindi diventino più facili. Tant'è che anche al giorno d'oggi non c'è proprio una linea chiara, mentre tutti sono concordi nel condannare i pentiti, ovviamente, perché sono Chiarissimo. persone che sono passate dalla parte avversa a quella per cui hanno combattuto, sulla dissociazione c'è molto più dibattito. E non c'è proprio una linea comune che accusa il dissociato di essere un traditore o qualcuno che comunque ha contribuito a sconfiggere un movimento. Infatti so che questa è una domanda un po' delicata, poi però vabbè, poi quello che No, non vogliamo far sentire agli ascoltatori lo possiamo anche tagliare, quindi ma sentiti libero di non c'è rispondere come problema, nel vuoi. senso i pentiti sono traditori, insomma, gente che vende i suoi compagni, fa arrestare, fa andare in galera e addirittura ammazzare, come in via Fracchia, Pesci che ha consegnato le chiavi ai carabinieri che sono entrati di notte mentre i compagni dormivano e li hanno ammazzati. Che è stata una rappresaglia precisa, c'è cioè una dinamica di guerra. Noi qualche giorno prima avevamo ammazzato tre della Digos, era così, funzionava così, ci si ammazzava, insomma, tanto per intenderci, era una guerra. E con i dissociati la cosa, appunto, perché il problema, la questione diventa politica, è molto più sottile, ma va fatto un ragionamento. In quegli anni e loro hanno avuto un ruolo fondamentale, nel mettere in crisi e in ginocchio, diciamo, il movimento rivoluzionario e le organizzazioni combattenti, più ancora dei traditori, dei pentiti, perché è stato un fenomeno di massa, mentre quello comunque dei pentiti era ancora abbastanza ristretto ad alcuni individui. Lo Stato ha fatto leva a un certo punto, ha deciso, quando ha visto che si era aperta una situazione di crisi, che una prospettiva rivoluzionaria cominciava a non essere più così certa come negli anni precedenti, e quindi molti sono entrati in crisi appunto per questo fatto qui, lo Stato è stato intelligente, ci è entrato dentro con questa cosa della dissociazione. Però bisogna riconoscere che la dissociazione comunque è stata una biura. La gente ha firmato un protocollo dello Stato nel quale dice che la violenza è sbagliata, nel senso, capito? E quindi è una rinuncia alla lotta di classe in qualche modo, capito? Che loro ti hanno fatto pagare. Ora bisogna saper distinguere, nel senso che molti hanno fatto questo passo per uscire dal carcere, non vedendo prospettive con ergastoli sulle spalle e roba varia. Hanno firmato questa biura, questo protocollo, ma non si sono prestati a interviste sui giornali, a legittimare lo Stato e a delegittimare le forze rivoluzionarie. Altri no, tipo Alberto Franceschini, che è proprio passato dall'altra parte, dando fiato a tutti i dietrologi, dando appunto una pezza d'appoggio a chi sosteneva che noi si era finanziati, pagati dai servizi segreti, non si sa bene di quale paese, che si era in qualche modo coinvolti con la mafia, con la camorra, con tutti, chi ne ha più ne metta. Questi si sono prestati, questi sono passati dall'altra parte, sono diventati dei militanti controrivoluzionari nel vero senso della parola. E quindi c'è da fare una distinzione, nel senso i primi si può dire che sono dissociati giudiziari, gente che tenta di trovare una via di uscita dal carcere e che piega la testa, ma non crea danni, diciamo, da un punto di vista politico, non si attiva politicamente, e altri invece che sono i dissociati politici che sono passati dall'altra parte e sono ancora peggio dei pentiti e dei traditori perché continuano a fare politica. la fanno per lo Stato, capito? E creano le loro fortune su questo, nel senso aggregandosi a gente che, appunto, questi dietrologi che hanno scritto libri, hanno fatto soldi, carriera e fortuna sulla nostra pelle, scrivendo un sacco di stronzate che non stavano né in cielo né in terra, appoggiate da personaggi di questo tipo, insomma. Quindi un conto è la dissociazione, diciamo, a caldo in quegli anni, che chi si dissociava veniva declassificato, messo in carcere in cui c'era socialità, c'era condizioni di vita, diciamo, migliori, le misure di sicurezza attenuate, e nel contempo per costringere anche gli altri, noi, a dissociarti, veniva applicato l'articolo 90 con la sospensione di tutte quelle che era la riforma carceraria, tutte le minime cose, non ci si poteva più scrivere nemmeno una cartolina con i nostri familiari, ecco, c'era una situazione sempre più pesante, era un giro di vita sempre più pesante, che loro ti indicavano che la via d'uscita da questa morsa era quella di dissociarsi. Quindi loro in qualche modo hanno anche contribuito al fatto che noi si subisse un trattamento sempre più pesante, loro, per ottenere i loro benefici in quegli anni lì. Quindi la rabbia era molta nei confronti di loro. A distanza di 30-40 anni uno riflette e fa la distinzione che ti dicevo prima, nel senso, un conto lei dissociato, sì, che ha piegato la testa, ma che comunque non ha creato danni, non si è attivato politicamente con il nemico, e poi magari una volta uscito fuori ha ripreso anche a lottare, capito? E un conto è dissociato, che è passato armi e bagagli dall'altra parte, insomma, al servizio dello Stato. Prima parlavi, appunto, del fatto che comunque voi non avevate più niente da perdere. C'era una guerra in corso praticamente, e questa condizione permetteva anche, appunto, in parte era uno dei fattori che permetteva questo livello di radicalità e di militanza interna al carcere. Ecco, quando hai detto questa cosa mi viene a pensare che, cioè, guardandosi quegli ultimi 15 anni qua in Italia, che nel mondo carcerario succede veramente poco di insubordinazione, di, cioè, sono più episodi minimi, più episodi di esasperazione individuale, almeno per quello si può prendere dai giornali, anche difficile, laddove non c'è un lavoro specifico di contatto col carcere, sapere realmente delle cose. Però se da una parte è così, dall'altra parte ci sono nei CPR, ex CIE, i centri per migranti irregolari, ci sono state in realtà negli ultimi 10 anni tantissime rivolte, evasioni, distruzioni di sezioni o dell'intero carcere, appunto. E, cioè, questa forse è semplicemente un'osservazione, più che non vuole essere una domanda. Però c'è una ragione per questo, perché la riforma carceraria, diciamo, i detenuti italiani, in qualche modo, comportandosi bene, eccetera, eccetera, hanno possibilità di avere riduzione di pene, di accedere ai permessi, di accedere alla semilibertà. L'immigrato non ha nulla, perché non ha famiglia, non ha certezza di nulla, è escluso da tutto, da ogni cosa, e non a caso i dannati della terra di oggi, quelli che noi chiamavamo i dannati della terra, la popolazione a cui noi facevamo riferimento come nuclei armati proletari, sono gli immigrati di oggi, che sono quelli che vivono nelle condizioni più disperate, diciamo, che non hanno accesso a nulla, perché non hanno, per poter avere permessi bisogna che tu c'hai una famiglia, tu c'hai qualcosa, capito? Per poter avere la semilibertà bisogna che c'hai un lavoro, c'hai qualcosa. Anche quindi, semplicemente per finire in carcere oggi per un immigrato è molto più facile, sì, per sì, un'infinità di ragioni che non sono solo il puro razzismo, è anche una questione economica, semplicemente perché magari chi viene beccato con 20 grammi di fumo perché ci fa dei soldi vendendolo, sì. Magari se è un ragazzetto di 20 anni italiano non succede niente, o insomma farà una denuncia, un processo, magari se è arabo, insomma, di un altro paese, questo è sicuramente un'altra cosa. Infatti, voglio dire, la popolazione carceraria, quando si parlava prima delle varie trasformazioni, da prima degli anni 60, che piccoli reati o la criminalità organizzata, mafia, eccetera, poi le batterie, soggetti rivoluzionari, poi ci sa l'eroina, il tossicodipendente, cioè si sta parlando di composizione sociale, di classe della popolazione detenuta. Da una parte di nuovo la criminalità organizzata, una nuova criminalità organizzata che spaccia la droga, nel senso narcotrafficanti, eccetera, eccetera. Poi c'è un'ultima fase che è questa degli immigrati che hanno inondato le carceri. Oggi nelle carceri sono piene di immigrati solo perché sono immigrati clandestinamente, che è un reato, diciamo, in Italia. E questo crea, diciamo, dentro la popolazione carceraria, crea una situazione, io non so quanti siano oggi in percentuale, nel senso, però è alta. Di quando sono uscito io era all'inizio questo fenomeno, nel 1995 venivano calcolati in 2-3% della popolazione detenuta, oggi penso siano al 30%, una cosa, non lo so. Gli immigrati, sì, sì, anche di più. Sì, io non capace siano la metà, quindi ti dà l'idea, cioè, chi c'è in carcere oggi. Oggi in carcere è pieno di immigrati, di tossicodipendenti, di piccoli spacciatori, questo è il carcere. C'è sempre, cioè, poveri, solo che ora poveri no, non sono più gli italiani, ma magari all'epoca gli immigrati, non lo so, del meridione, comunque persone che dovevano anche, cioè, per necessità accedere a forme di delinquenza per vivere, perché all'interno delle gerarchie sociali non c'era spazio per loro. E ora diciamo che c'è stato un po' uno scivolamento di questa cosa, e i più poveri semplicemente son diventati qualcun altro. Poi c'è anche da dire che lo Stato molto spesso, su chi se lo può permettere, magari cerca di adottare sempre di più quelle che sono le misure alternative. Quindi magari un italiano, se non, proprio non ha commesso un reato grave, ma non lo so, se lo becca per spaccio, magari punta più a mandarlo ai domiciliari che a tenerlo in carcere, dove comunque magari rappresenta anche una spesa minore per lo Stato, perché una persona ai domiciliari non ci spendi dei soldi, mentre magari una persona in carcere devi pagare lo stipendio delle guardie, devi pagare le spese della struttura, eccetera, eccetera. E soprattutto non lo tieni in una situazione sociale di pericolosa anche per te, perché comunque ce lo insegna un po' la storia, che le rivolte dov'è che accadano sostanzialmente? Dove gli sfruttati sono obbligati a rimanere insieme, quindi accadono nelle università, nelle scuole, nelle fabbriche o nelle carceri, perché tante persone sottoposte a condizioni non soddisfacenti si ritrovano forzatamente insieme. Invece con la distruzione di queste strutture, queste cose avvengono sempre meno, quindi si punta a isolare di più sia i detenuti, sia ovviamente le università vengono magari spostate, non vengono più tutte insieme, la fabbrica non esiste più, si punta più a creare tante piccole fabbriche sul territorio o a delocalizzare la produzione. E questo in una certa misura è avvenuto anche per le carceri. Ovviamente qua stiamo parlando di un'istituzione di cui per sua natura è più difficile separare le persone, però con tanti piccoli accorgimenti comunque ci si può riuscire bene. Anche oggi, diciamo, i compagni attualmente in carcere in Italia sono una cinquantina, saranno, comunque non si parla di un numero elevatissimo, almeno quelli entrati in carcere negli ultimi 20 anni, diciamo. Però non è vero che i compagni sono poco repressi in Italia, i compagni sono tanto repressi in Italia, però si punta più magari a dare misure alternative, come possono essere i domiciliari o vari obblighi preventivi, eccetera, eccetera, perché ovviamente c'è un disegno dietro questa cosa, viene ritenuta una misura più efficace, piuttosto che rischiare di concentrare tante persone in un unico posto dove poi possono diventare problematiche. cioè una delle cose che a me ha colpito del tuo libro è proprio come proprio descrivi la politicizzazione del detenuto comune, capito? Cioè, come dici che le persone entravano in carcere delinquenti e ne uscivano militanti. Per cui era quasi cioè, per assurda lo Stato per non avere più problemi con i rivoluzionari avrebbe dovuto liberare tutti i detenuti, non avrebbe dovuto mandarli in carcere, non so, magari se li mandava in vacanza all'Isola d'Elba avrebbe fatto meglio dal suo punto di vista, si sarebbe risparmiato tante beghe dal punto di vista sociale, arrivando a un momento di crisi assoluta per le sue istituzioni. Sta Infatti, si lezione comunque diceva però l'hanno carcere imparata come scuola bene. di rivoluzione, no? Si diceva Sì, prima. sì. Trasformare il carcere in una scuola di rivoluzione. Beh, non so di cos'altro potremmo parlare, No, se hai qualche. volevo sulla questione, si diceva la rivolta di Trani, Gisse, che sono intervenuti, che comunque alla fine ha portato alla chiusura dell'asinara, alla liberazione di questo compagno anarchico. C'è un episodio, insomma, loro hanno chiuso con questa brillante operazione, ma solo qualche giorno dopo il capo che ha guidato questa operazione, il capo delle truppe speciali, è stato ammazzato dalle Brigate Rosse. Si parla del generale Calvalici, che era il braccio destro della Chiesa anche nella costruzione delle carceri speciali. Questo dà l'idea della dinamica di guerra, quando si parla guerra, è guerra. Nel senso, loro fanno questo, te fai quest'altro, loro fanno quello, te fai quest'altro. Cioè, loro esultavano per questa loro vittoria, che ci aveva massacrato tutti, buttati nei passeggi. Siamo sotto Natale, nel senso, siamo alla fine dell'anno. Noi si è dormito tutti mezzi nudi e bastonati, con le ossa rotte all'aperto, insomma. Faceva freddo, quando pigli tante botte, cioè le ossa rotte, i geloni ancora, i dolori sono ancora più forti. Infatti nel libro lo descrivo, che noi ci si era messi come gattini tutti, si riscaldava l'uno con l'altro, con i nostri corpi, per passare la notte in quella situazione lì, mentre le guardie inneggiavano, facevano svastiche sui muri, bruciavano i nostri libri, cantavano di fascisti e nazisti. Questo era il clima, diciamo. Dopo una settimana viene ammazzato Calvalici, cambia tutto. Loro si cacano addosso, perché si cacano addosso, perché dice: cazzo, questo era clandestino, il generale dei carabinieri, roba, vai, si sono andati, hanno ammazzato, hanno trovato lui, figurati il maresciallo del carcere, cioè, voglio dire, ti si piglia dove si vuole, insomma. L'idea era questa. Per cui c'era tutta una serie di dinamiche per far capire, insomma, che in quegli anni battuto colpo su colpo. Ecco perché io dico che c'è stata una guerra civile a bassa intensità, che è la verità storica che si vuole nascondere. C'è un negazionismo su quegli anni evidente, che non si vuole riconoscere, che però ci sono dati e numeri che fanno riflettere, perché quando si parla in 10 anni di 12.000 azioni armate, sono più di 1.000 azioni l'anno, l'anno è di 365 giorni, cioè si comincia ad avere un'idea precisa. Quando poi si fa una comparazione fra questi numeri e i numeri della Resistenza, ci si rende conto che i numeri della lotta armata degli anni 70 sono superiori a quelli della Resistenza, sia come prigionieri politici, come numero dei prigionieri politici, sia come numero di morti dall'una e dall'altra parte. Quindi un'azione armata, eccetera, eccetera, tolto il periodo dal 43, dall'8 settembre in poi, chiaramente qui c'è l'invasione dei tedeschi, c'è una guerra, li ammazzano tutti, nel senso che io parlo del ventennio, capito, fino all'8 settembre. Noi in 10 anni ci sa i numeri più elevati di loro in 20 anni, della resistenza in 20 anni. Quindi se quella è stata una resistenza, e nessuno lo nega, nel senso, c'era organizzazioni partigiane montagna, eccetera, che facevano le loro azioni, le loro rappresaglie, la loro resistenza, non si capisce perché quello che è successo negli anni 70 nel nostro paese non abbia una dignità, se non altro, a parte il discorso che la storia la scrivono i vincitori, la resistenza ha vinto, la lotta armata degli anni 70 ha perso. La grande differenza è questa, anche se a distanza di anni vediamo il riemergere del neofascismo e il tentativo di delegittimare addirittura la resistenza. Oggi vengano perseguitati gli antifascisti che vanno nelle piazze dagli sbirri e vengano difesi i fascisti per consentirgli di parlare e di agire politicamente. Questa è una realtà in cui si sta capovolgendo tutto, abbastanza preoccupante, ci sono dei segnali abbastanza preoccupanti. Sì, c'è da dire che fortunatamente per quello che riguarda l'aspetto storico, ultimamente stanno uscendo tanti validi testi che cercano un po' di inquadrare storicamente in maniera più attenta questo periodo, e cioè non mi riferisco solo a libri come il tuo che sono molto belli, però comunque raccontano un'esperienza personale, storia, non hanno diciamo la pretesa di fare della storiografia, certo. Però altri libri come, non so, mi viene in mente anche quello che è uscito di Paolo Persichetti su le Brigate Rosse, che sono fatti molto bene, e tanti altri ne potrei citare ora. Diciamo c'è un'attenzione nuova su questi argomenti da parte ovviamente comunque di una nicchia delle persone, poi purtroppo accanto a questi si continuano a vendere anche i libri che affrontano cose come il caso Moro da un punto di vista cronachistico, ma non puoi affrontare in maniera cronachistica una cosa, un fatto che è avvenuto 40 anni fa, nel senso ormai è una cosa storica. Se l'affronti la devi affrontare con l'attenzione dello storico, riportando le fonti, andando anche a intervistare chi ha partecipato direttamente a quelle azioni, invece questa cosa viene totalmente dimenticata. Però cioè, dall'altro punto di vista almeno un'attenzione un po' diversa a queste cose dopo 40 anni, nel senso era anche l'ora. La stiamo iniziando un po' a vedere. Sì, sì, questo l'ho riscontrato anch'io. Io ho già fatto 58 presentazioni, praticamente ho girato tutta l'Italia e ho visto parecchi giovani, nel senso in molte realtà, un certo interesse a capire, a comprendere, a conoscere. Gente che comincia, non si accontenta più di sentire una sola campana, quella del potere, che ci narra quello che è successo in quegli anni, ma che vuole capire veramente, vuole sentire anche i diretti protagonisti di questa storia, e questo è un elemento di novità che comincia diciamo a emergere, appunto come dicevi te, sarebbe anche ora dopo 40 anni insomma, che non si riesce ad affrontare diciamo un periodo storico in termini storici appunto, senza cercare di utilizzarlo in termini politici come fa il potere, nel senso che poi alla fine qual è la loro tesi? La loro tesi è che non c'è, la lotta di classe non esiste, perché i proletari, le classi sono subalterne al potere, quindi esiste una lotta tra i poteri all'interno del sistema in cui le classi, la classe è utilizzata dall'una o dall'altra componente, e quindi te tu sei, deve essere per forza il servizio di qualcuno, o dei servizi segreti o di una parte dello Stato, deviata o non deviata eccetera, perché non hai dignità, non hai autonomia, non è possibile che il proletariato si organizzi e riesca a mettere in piedi diciamo un tentativo rivoluzionario, che è quello che si vuole negare e quello che invece è successo in questo paese. È una tesi reazionaria, perché il motore della storia è la lotta di classe da sempre, capito? È una logica in cui appunto non si vuole riconoscere questo dato qui. Poi alla fine c'è questo, quando te tu vai a cercare in modo dietrologico rapporti, chi c'era, qualcuno dei servizi, perché noi siamo incapaci di poter, ci deve essere qualcuno che ci ha diretto dall'alto e ci ha guidato, no? E per motivi suoi eccetera di lotta tra le varie consorterie del potere, non è così, nel senso c'è stato un tentativo rivoluzionario vero che ha coinvolto nelle piazze, nelle scuole, nelle fabbriche, dappertutto delle realtà composite, come si diceva prima, movimenti di ogni tipo, con orientamenti culturali di vario tipo e genere, che ha dato vita a questa grande realtà che è durata per 15 anni in questo paese. Insomma, questo si vuole negare perché forse si ha paura che possa risuccedere, non lo so. Il motivo di questo. Sì. cioè lo Stato, anche quando vince non vince mai abbastanza, ha sempre paura che qualcuno lo metta in discussione. Sai, l'esperienza fa paura, perché loro non erano più, diciamo, impermeabili e immuni, loro dovevano stare attenti nelle loro case, nella loro fabbrichetta, in qualunque posto andavano c'era qualcuno che li poteva aspettare e sparargli addosso, nel senso, erano, capito, non erano invincibili, erano vulnerabili, nel senso, la nostra esperienza dimostra questo, che anche loro possano essere terrorizzati. Mi viene in mente un aneddoto che proprio a puro scopo illustrativo, cioè, tempo fa mi raccontò qualcuno che, vedendo un manifesto di un convegno sulla videosorveglianza, sui nuovi metodi investigativi legati alla videosorveglianza, e su questo convegno, come in tutti i convegni, c'era il nome dei relatori. E questa persona disse, vedi, al tempo delle Brigate Rosse il nome dei relatori non l'avrebbero messo. Cioè, sì, era pericoloso. Sì, è un po' così, ovviamente cercare, avevano più paura all'epoca. C'era Montanelli che diceva che la mattina prima ascoltava la radio, il giornale radio, quando avevano sparato a 3 o 4 poteva uscire da casa, diceva, oggi andiamo. Oppure c'era la battuta di quello che usciva, metteva la gamba finta fuori, no? dalla porta di casa. Sono tutte battute, però Montanelli stesso a un certo punto dice, noi ci stavamo facendo le valigie per andare via. Cioè, in questo paese siamo arrivati a un momento in cui veramente stava entrando in crisi, stava tracollando tutto, capito? Cioè, per cui non è stato un tentativo rivoluzionario così, cioè è stata una cosa seria, è arrivata a dei livelli in cui si sono cominciate a inclinare le cose, non funzionava più un cazzo. La Fiat, Agnelli nel suo libro di intervista che aveva fatto Biagi, dice, ma io non potevo più, avevo la mia catena di comando fino ai capetti di reparto, non funzionava più un cazzo, perché questi venivano presi a schiaffi dagli operai e cacciati fuori dall'officina, dalla fabbrica, quindi non sarei al controllo, e poi venivano sparati fuori dalle Brigate Rosse, cioè voglio dire, c'era tutta una cosa di terrore, non funzionava più un cazzo, noi ci si stava ponendo il problema di andare via dall'Italia, anche loro, nel senso, la Fiat, che era la Fiat, per dire. Per cui si dovrebbe avere l'onestà di riconoscere, capito? Sicuramente questo tentativo è andato male, perché sicuramente sono stati fatti degli errori, infatti in questo senso è sbagliato, no? Pensare di ripercorrere strade che comunque hanno portato a una sconfitta, nonostante appunto che tatticamente ci sono state anche, si è ottenuto anche delle vittorie. Cioè, noi eravamo ragazzi di 20 anni e ci siamo trovati la strada per conto nostro, io penso che le nuove generazioni dovranno fare altrettanto, perché sicuramente saranno anche più bravi di noi nel capire, nel comprendere la realtà in cui si trovano a vivere, capito? Come noi all'epoca, se noi stavamo dietro ai nostri vecchi, diciamo così, non avremmo mai fatto quello che abbiamo fatto. Oppure, che ne so, la resistenza poteva essere concepita come che andava in montagna, non lo so, seguendo le orme della resistenza, roba varia, no. Noi siamo andati dove c'erano i concentramenti del potere, nelle fabbriche, nei quartieri, nelle scuole. È lì che si combatteva lo scontro di classe. Va bene, io diciamo vorrei giusto porre una questione che riguarda appunto un po' anche lo spirito di questa tua riflessione, nel senso anche dell'ottica per cui ripercorrere queste esperienze, oltre a magari da compagni emozionarsi nel leggere con l'intensità di alcune vicende, il fatto di come riportare un po' sul presente. È l'aspetto che mi faceva un po' più riflettere, ma che è anche ritornato poi nelle domande che ti faceva Mattia, è quello di come, diciamo, la condizione carceraria in qualche modo rispecchiasse un elemento che riguardava anche la vita dei quartieri e delle fabbriche, cioè l'aspetto dell'uniformità delle condizioni di vita, di forme di vita in comune che dalla concentrazione dei quartieri proletari alle fabbriche, alle carceri, ponevano i compagni e gli sfruttati in un appunto bagaglio di esperienze comuni che ti poneva tutti nello stesso piano. Allora, diciamo, oltre, vabbè, a tutto quello che si potrebbe dire sull'oggi, sulla frammentazione di questo tipo di esperienze comuni, sulla dispersione e anche quindi sulla difficoltà da parte dei compagni di relazionarsi in modo efficace con le condizioni di vita di chi poi, come dire, lo sfruttamento o il carcere li vive direttamente. Sulla questione del carcere, discutendo con i compagni nelle poche esperienze di detenzione o di tentativi di intervento, di lotta sul carcere, un elemento che viene fuori come aspetto che pregiudica pesantemente tutti i tentativi di avere degli interventi di lotta che portino a qualcosa sul carcere è appunto questo fatto di come ci sia, si diceva, una scissione forte che riguarda da una parte il fatto che effettivamente i compagni oggi, quando finiscono per esempio in condizioni di detenzione, affrontano quei canali che sono la S2, che insomma ti divide da un punto di vista addirittura di uniformità ideologica, quindi cioè gli anarchici con gli anarchici, i comunisti con i comunisti e tutto il resto. E dall'altro invece, quando si finisce, cosa che abbiamo visto succede anche sempre più raramente in delle sezioni di comuni, c'è il fatto dell'elemento anch'esso molto pesante della premialità, per cui se tu per esempio finisci 2 mesi in una sezione di comuni e proponi una banale forma di lotta come lo sciopero del carrello, di base tu quando ci finisci di solito sei in condizioni di detenzione preventiva, quindi a te che ti facciano un rapporto non te ne frega niente, invece gli altri detenuti frega come, per cui c'è subito una difficoltà di dialogare da questo punto di vista, perché permessi appunto accorciamenti di sconti di pena e tutto il resto riguardano questa forma differenziale di premi, sconti, che magari te in quanto compagno non vivi direttamente e quindi pongono delle barriere molto forti. Adesso non so come formulare questo in una domanda, però questo aspetto in qualche modo porta anche il fatto che intervenire direttamente sulle condizioni carcerarie fuori dalle pratiche comunque giuste e necessarie, come riportare le questioni di, cioè le ribellioni che avvengono spontaneamente, riportare dei maltrattamenti e dare sostegno con gli scarsi mezzi che si hanno, questo è un elemento che ci mette fortemente in difficoltà, nel senso tutti i compagni con cui io ho potuto parlare che hanno fatto piccole esperienze di pena hanno tentato anche di comportarsi da compagni dentro, quindi di essere i primi quando si tratta di non riportano tutti quanti questo aspetto qua di forte frustrazione, ecco, difficoltà di riuscire a mettersi in mezzo in modo determinato. Sì, a me viene anche in mente che, ora poi faccio rispondere anche a Pasquale, che chi fa il lavoro sul carcere, i pochi compagni che lo fanno in Italia, le esperienze più felici che hanno avuto è più stato fuori dal carcere, cioè nel senso magari riuscivano con successo a organizzare la solidarietà, a fare anche i presidi con le famiglie o a magari portare ai colloqui una loro visione, comunque far sentire vicinanza a chi stava dentro da parte di chi stava fuori. Però magari si è fermata a quello, quindi comunque sì, un successo, una vicinanza con le famiglie dei detenuti, magari belle manifestazioni sono state fatte a Palermo, sono state fatte a Roma, a Napoli, dove comunque partecipavano tutte le famiglie dei detenuti, c'era un bel clima di solidarietà fuori e magari il detenuto quando usciva era anche contento di questo, poi ci mantenevi un rapporto e tutto, però appunto si fermavano queste lotte, perché alla fine sono lotte, si fermavano alle mura del carcere, non riuscivano mai a entrare dentro. Riflette un po' la situazione che c'è oggi, no? La differenziazione nelle carceri, diciamo che ai tempi nostri iniziava con l'articolo 90, però che veniva esercitato un sistema, diciamo, di privazione di tutti i diritti, eccetera, eccetera, detenuti hanno intero carcere, quindi comunque comprendeva un intero corpo di prigionieri, un centinaio, 200-300 prigionieri, a seconda di quanti si era in quel carcere. Oggi siamo arrivati che c'è un sistema di differenziazione che è personalizzato, abbiamo la S1, S2, S3, poi c'è il 41 bis, cioè siamo arrivati a dei livelli appunto in cui anche gli stessi compagni vengono divisi in piccoli gruppi, sempre più piccoli e sempre più poi nelle condizioni di non poter veramente fare nulla. D'altra parte è intervenuta appunto quella che è la riforma carceraria, i benefici eccetera, in cui basta un rapporto che te trovi escluso, diciamo, dalla possibilità di ottenere un permesso, di andare a lavorare all'esterno, eccetera, eccetera. Queste cose pesano, però è anche il riflesso di quello che succede fuori, perché la stessa cosa succede nelle fabbriche. Te vai nella stessa fabbrica, trovi l'operaio col contratto a tempo indeterminato, contratto nazionale, eccetera, eccetera, poi trovi quello col lavoro interinale, con contratto di lavoro interinale, trovi quello a tempo determinato, 2 mesi, 3 mesi, quindi sotto ricatto per un eventuale rinnovo, eccetera, eccetera, trovi quelli a chiamata, contratto, cioè ormai siamo a dei livelli, insomma, voglio dire, siamo tutti lì, si fa lo stesso lavoro, ma siamo tutti con un trattamento economico e di diritti diversificato. Quindi è una situazione molto complicata, è la stessa cosa, in carcere avviene in un modo e fuori avviene in un altro. E lì si tratta di avere l'intelligenza di capire come è possibile riallacciare, diciamo, certi fili in una realtà più complessa. Per dire, probabilmente gente che ha vissuto l'esperienza che ho vissuto io, quindi della mia generazione, questa capacità di comprensione di questa realtà e quindi di trovare, probabilmente non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo perché abbiamo vissuto un'altra realtà in cui tutto era più facile, era tutto piatto, eravamo tutti uguali, nelle fabbriche, nei quartieri, nelle scuole. Oggi non è così. Oggi c'è, cioè, appunto, anche nei quartieri c'è chi ha il contratto, gli è stata assegnata la casa, eccetera, eccetera, c'è chi è occupante e rischia di essere sbattuto fuori in qualunque momento, eccetera, eccetera. Sono situazioni diversificate, però i fili si trovano, cioè, voglio dire, ci sono, nel senso, sta a capire dove, in che punto è possibile, da dove ripartire per riallacciare, diciamo, questi fili, perché alla fine dei conti tutte queste figure sono comunque figure che vivono un'oppressione, nel senso, rispetto a uno Stato che vivono delle condizioni, perché anche il detenuto che potrà accedere al permesso, è comunque un detenuto, sta in galera, nel senso, vive una condizione di un certo tipo, sapendo che vive in una società in cui ci sono altri che rubano, appunto, 49 milioni di euro e stanno fuori e fanno anche il ministro, insomma, voglio dire, poi mi viene a parlare di giustizia, nel senso, in carcere ci sta la povera gente, ci stanno i proletari, i sottoproletari, ci sta i poveri, ci sono i poveri, questa è la realtà, insomma. La stessa cosa, la gente che è costretta a vivere di lavoro e accettando delle condizioni, dei contratti di lavoro che sono veramente, cioè, vergognosi, nel senso di sfruttamento incredibile. Quindi, voglio dire, una base c'è. Una base c'è una differenziazione enorme, e lì si tratta di quali possano essere i punti, diciamo, di ricomposizione di interessi di classe sociale, diciamo, di queste figure. Beh, noi ringraziamo Pasquale per tutto quello che ci ha raccontato della sua esperienza e speriamo, anzi sicuramente avremo modo anche di tornare a parlare con lui come con altri compagni, visto che ultimamente ci stiamo appassionando molto anche a quello che è accaduto nella nostra città negli anni passati, perché pensiamo che comunque sia un buon esercizio anche di cercare di studiare, di capire bene la storia, anche per interpretare meglio il nostro presente. Ci sentiamo su questi canali come sempre, come quando riusciamo, come nei periodi in cui riusciamo, il martedì a mezzogiorno. Vi lasciamo agli altri programmi della giornata. Un saluto da Radio Wombat.